Ma la Francia ha dei legami con tutta l'Africa, da cui importa quasi la metà dei suoi bisogni di petrolio, però dalla Libia in particolare importa solo 6 milioni di tonnellate, noi invece ne importiamo fra prodotti petrolio oltre 20 milioni di tonnellate all'anno, ciò non è così dipendente dalla Libia, il problema magari è l'Algeria, da lì importa un po' di più, ma anche qua sono 8 milioni di tonnellate su un totale di importazione della Francia di 72, anche il gas importa 7 miliardi di metri cubi dall'Algeria, su un totale di importazioni di 14 della Francia. In sostanza la Francia usa molto nucleare, questo gli consente di essere un po' più tranquilla sugli idrocarburi, sulle importazioni dall'Africa. C'è forse però la volontà di giocare un ruolo più forte, no? Anche in questo settore e anche in questi paesi? Ma certamente vuole garantire stabilità in un'area vicino all'Europa, alla Francia, vuole avere una leadership nel garantire stabilità in un'area da dove arriva la gran parte degli approvvigionamenti verso l'Europa. L'esempio più calzante è quello dell'Italia, che fra gas e petrolio importa dal Nord Africa oltre il 30% dei suoi approvvigionamenti di idrocarburi, che contano per il 70% dei consumi di energia.